精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 我是消防车，守卫着这座城市。 出发！ 很多人说我有红色的铠甲，坚定的信念和无坚不摧的体魄。可是，每当看到人们因为不小心的疏忽造成难以挽回的损失，我的心…… 提高消防意识，远离火患，幸福平安。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏安德烈·博切利演唱的威尔第的歌剧咏叹调。安德烈·博切利是意大利著名的跨界男高音歌唱家，下面我们将要听到的是他所演唱的威尔第的15首歌剧咏叹调，风格多样，难度极大，具有抒情性和戏剧性。博切利的演唱把不同人物的内心情感刻画得栩栩如生。下面请欣赏他的演唱，由祖宾梅塔指挥以色列爱乐乐团伴奏。 Madre infelice, corro a salvarti, a te palmeno, corro a morir, a te palmen, corro a morir, a te palmen, a te palmen, corro a morir. gran mio con l'essere io tuo, tu mia consorte, avrò più l'alma in tre. Pensier.

avrai sicuro vindice, quest'on t'allaverò. O mio sor, o infamia, o se quest'on t'allaverò, si laverò. O mio sor, o infamia, o se quest'on quest'ontalavero. O mio rimorso infamia, io vissi in tale errore, ma il turpe sonno frangere il vermi valerò. Per poco in cielo acquedati, o grido, grido dell'onore, ma avrai sicuro vindice quest'on t'allaverò. O mio rossor, o infamia, o se quest'on t'allaverò, si laverò. O mio rossor, o infamia, o se quest'on t'allaverò, quest'on t'allaverò. Del mio cor gli affanni, e voi negherete il vostro aiuto, forse per sempre, per nani fia perduto. Sarà pena tua valore,

agli occhi miei. Se cielo e terra, se mortali ed angeli attestarmi volesse che la non è rea, mentite, io rispondere dovrei, tutti mentite. Son cifre sue. Tanta perfidia, un'alma sì nera, sì mendace. Bella conobbe il padre, ma dunque i giuri, le speranze, la gioia, le lacrime, l'affanno, tutto è menzogna, tradimento, inganno. Questa mano a stringermi, alla sua man sentia. Ah, ah, mi tradia, ah, mi tradia. Statico da labbri suoi pendea ed ella in suono angelico amo, amo tesor dicea tal che sembrò l'empire aprirsi all'alma mia in suono angelico amo te sol dicea ah, ah, mi tradia ah, mi tradia angelico t'amo dicea ah, mi tradia mi tradia. La vita inferno all'infelice, invano morte desio. Siviglia, Leonora, o rimembranza, o notte coniume mi rapisti, sarò infelice eternamente, è scritto. Della nata al suo terra il padre volle spezzar l'estraneo giogo e coll'unirsi all'ultima degli Incas la corona cingere confidò. Fu vana impresa, in un carcere nacqui, m'educava il deserto, sol perché ignota è mia regale stirpe. I miei parenti sognarono un trono e li destò la scure. Oh, quando fine avrò

io che canto di notte col rumore del mare, io che parlo alla luna per capire il mistero di una storia d'amore. E ti sento più forte nelle sere d'estate, sento le tue parole come piccoli fuochi accesi in fondo al mio cuore. Dentro la vita mia una musica suona, una nuova poesia nel ricordo di te, oceani immensi di libertà, giorni di festa che non scorderò, il freddo inverno non ti porta via dalla mia. Più sentito il profumo infinito di una rosa al mattino, questa voce che ho dentro parla solo di noi, come un dolce tormento questo sogno lontano non mi fa più dormire, non è un canto di addio dolce, un'orchestra che io suono solo per te, oceani immensi ritroverò, corpi celesti e terre d'Africa, un altro sole perdutamente voli infiniti sulle città all'orizzonte, solamente noi, un mondo nuovo da cercare in due, questo è il mistero. La gente usasse il cuore

tempo ci ritrovò. Lui aprì la mano e poi mi toccò il naso ed io sorrisi. Capito mai. armonia dolcissima, il tuo sorriso nell'andartene. Aspetterò anche un ritorno impossibile, sembra possibile per me. Ti sincero.